Yeah. Swish on blunt, swish land, blim blau come i Beatles. Bless in tic tac, le prendo dal mattino. Già dal mattino, yeah, tanto già non dormivo. La tua tipa mi fa, vorrei cambiare tipo. Swish on blunt, swish land, ciao ciao fratellino. Ex fanno tip tap sulle frasi del tipo. Bla bla bla bla bla bla, nemmeno ascolto sta zitto. Non mi definisco finto, mi faccio un favore. Un viaggio lungo cambia lo spirito. Tu nel mentre parli non sei spirito. Se ho neanche un minimo lacrime sui tuoi eyes, io non ce ne spreco mai. Piuttosto ti faccio bye. Resto solo, fate proprio niente di tuoi scazzi live. Live, quella volta ti presentai ai parenti come mia lei. Se non fosse che sei un po' fake, troppo fake, troppo flame. Me ne andrei frate quasi in te. Io farei solo Gucci gang, Fendi flex every day. Swish on blunt, swish land, blim blau come i Beatles. Blast in tic tac, le prendo dal mattino. Già dal mattino, yeah, tanto già non dormivo. La tua tipa mi fa, vorrei cambiare tipo. Swish on blunt, swish land, ciao ciao fratellino. Ex fanno tip tap sulle frasi del tipo. Bla bla bla bla bla bla, nemmeno ascolto sta zitto. Non mi definisco finto, mi faccio un favo. Giro sempre con Mary dietro, oh oh. C'è qua davanti, mamma che accollo. Tanto non mollo, siamo diamanti. In mezzo a tutto questo fango, no, non puoi negarlo bro. La cresta scende se ti parlo, affatti mica fatto, sali e cadi in basso bro. Sono qui un po' per te, qui anche per me, se non puoi un ostacolo. Fingi di essere solo il bene, ma non ho lo, non ho lo. Yeah. Swish on blunt, swish land, blim blau come i Beatles. Blast in tic tac, le prendo dal mattino. Già dal mattino, yeah, tanto già non dormivo. La tua tipa mi fa, vorrei cambiare tipo. Swish on blunt, swish land, ciao ciao fratellino. Ex fanno tip tap sulle frasi del tipo.